Triplice appuntamento a teatro il venerdì vigilia di weekend 29 settembre, ponte weekend tra settembre e ottobre. Che ponte avevate pensato voi? Ponte quello tra una festività e un giorno lavorativo? No, però è weekend, quindi abbiamo anche la possibilità di rivolgerci già con uno sguardo a inizio prossima settimana. Io ringrazio tantissimo Ilaria Cecchinato, redattrice di Radio Città Fujiko, perché per me rimane redattrice di Radio Città Fujiko, oltre che appassionata di teatro anche in maniera concreta, ora con divulgazione per quanto riguarda i contenuti di ERT, Emilia Romagna Teatri. E infatti andiamo in una sede di ERT per lunedì 2 ottobre e siamo a Modena al Teatro Storchi. È un evento speciale a favore delle zone alluvionate dell'Emilia Romagna, Luchino, Visconti, secondo Testori, di e con Umberto Orsini. Allora, Giovanni Testori, intellettuale, ricorre il centenario tra l'altro della sua nascita, 1923-2023, e quindi un approfondimento su questa figura che va in scena appunto al Teatro Storchi nella giornata di lunedì. Lui critico d'arte, intellettuale, poeta, scrittore, uomo di teatro, ed è un appuntamento speciale con Umberto Orsini, Luchino Visconti secondo Testori, e come vi ho detto il cui cachet sarà poi destinato alle zone alluvionate. Un progetto di e con Walter Malosti, con tante altre realtà. A Walter Malosti, che è direttore artistico per le stagioni di ERT, la programmazione dello stesso Teatro Storchi ha inizio il 2 ottobre ed è alle ore 20:30, per dirla in maniera più completa. Per quanto riguarda l'informazione con giorno, data, ora e quant'altro, Giovanni Testori, come vi ho detto, una figura importante, è stato definito da Pasolini una di quelle figure di intellettuale corsaro, anche perché lui ha avuto parole di critica importanti per l'epoca negli anni 70, tra gli anni 60 e gli anni 70, con intellettuali che erano più attenti a un aspetto che di interesse personale in ruoli adiacenti alla politica, piuttosto che ad avere una continuità creativa che potesse portare contenuti come il loro talento meritasse. Insomma, lui nasce nella periferia milanese ed è il terzo di sei fratelli, è trasferito poi per avviare del lavoro che non aveva nulla a che fare con l'aspetto artistico, teatrale, di critica e quant'altro, in quanto lui ha origini proprio come lavoratore vicino alla famiglia in una fabbrica tessile. Il suo lavoro è da autodidatta, quindi onore al merito anche per questa sua passione che ha portato ulteriore motivo di crescita e di divulgazione per quanto riguarda l'arte e il teatro, per un nuovo realismo, per quello che è una eterogeneità di realtà artistica, come vi ho detto, in diversi aspetti che vanno dal teatro, ma non solo, alla scrittura, alla critica, anche alla pittura, alla critica nell'arte. Quindi sarà il 2 ottobre al Teatro Storchi di Modena, Luchino Visconti secondo Testori. Perché questo binomio sarà di e con Umberto Orsini, di cui vi parlerò a breve? Ora metto un po' di musica anche, con in questo caso il brano dei Two Banks of Four, Queen of Crow, e poi torniamo in diretta per dare altre informazioni a proposito di questo inizio a Modena al Teatro Storchi. Stories on sale. con Umberto Orsini, l'attore che è stato testimone diretto, privilegiato appunto dell'intenso rapporto tra lo scrittore che abbiamo prima presentato, Giovanni Testori, e il regista Luchino Visconti. Vi è questa locuzione latina interdintus che è veramente dentro la pelle, tra le pieghe del cuore, proprio per conoscere in maniera molto intensa Visconti. Lo stesso Testori afferma ciò, inter ed intus, come le pieghe segrete del carattere del grande regista, e tutto ciò sarà rappresentato al Teatro Storchi di Modena. Grazie a Ilaria Cecchinato che mi ha segnalato per ERT, al quale siamo vicini come Radio Città Fujiko, rubrica In Scena, questo lavoro che dà il via alla programmazione a Modena di ERT. Luchino Visconti secondo Testori, di e con Umberto Orsini, un evento speciale a favore delle zone alluvionate dell'Emilia Romagna. Quindi tutto ciò sarà alle ore 20:30. Mandiamo, dopo questa ultima così precisazione, il brano dei Freak Power che ci porta alla pubblicità, Moonbeam Woman, e si rientra perché, come sapete, cerchiamo di coprire tutte le stagioni e i cartelloni teatrali, per cui avremo la stagione in partenza 2023 per Teatri di Vita. A tra poco. 6 months later, Justine up the van. We got no small surprise. The moonbeam woman sits on our hand. The night is sparkling.